blog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Nello streaming dei 5 Stelle per trovare i candidati da proporre alle quirinarie volano nomi, si fa quello di Cofferati, poi della Bindi, c'è chi lancia Benigni e chi rilancia Magalli, ma a colpire è soprattutto l'esito, correndo con la memoria a un altro streaming giusto 2 anni fa, allora al governo con lui Giammai e dovette passare la mano ed è andata come è andata. Oggi invece ecco Pierluigi Bersani in cima alla rosa dei 10 nomi messi in campo dai 5 Stelle per il Quirinale. Reputo che sia opportuno che all'interno della rosa che voteranno i cittadini ci possa essere... Non è che abbia particolare interesse a capire chi sia il candidato che riscuoterà maggior successo attraverso una votazione online, perché di questo stiamo parlando nella fattispecie. Oggi dalle 9 alle 14 si vota per il Movimento 5 Stelle su una rosa di candidati che loro hanno proposto come Presidente della Repubblica. Non mi interessa perché secondo me è necessario fare un punto sulla metodologia. Oramai è dato per scontato, passa come una notizia equivalente a una qualsiasi altra consultazione all'interno di una forza politica, il fatto che qualcuno proponga una rosa di nomi all'attenzione del pubblico, dei cittadini, degli elettori, che si possono esprimere attraverso uno strumento informatico, il voto online. Già la settimana passata parlammo di qualcosa di analogo, aveva fatto il quotidiano Il Fatto Quotidiano, che aveva proposto anche lui le sue quirinarie con la sua rosa di nomi. Oggi, sul numero di oggi, c'è l'elenco comunque del gradimento espresso del lettore del Fatto Quotidiano e ancora in testa alla rosa è Giancarlo Magalli con 23.644 preferenze, secondo ma di lunga distanza Stefano Rodotà con 14.392 preferenze. Quindi di riffo di raffa, volenti o nolenti, nonostante che da una settimana ci abbiamo tutti scherzato, motteggiato, ironizzato, il fatto che Giancarlo Magalli, scanzonato e divertente conduttore televisivo, ottima persona ma assolutamente al di fuori di una probabilità politica che faccia il Presidente della Repubblica, è comunque in testa. Se si vuole usare lo strumento informatico, se si dà credito a un sondaggio online, anche un giornale come Il Fatto Quotidiano è costretto a mettere comunque il primo Magalli. Non può dire il primo Magalli, abbiamo scherzato e cominciamo da Rodotà. È così. La stessa cosa potrebbe accadere anche per le votazioni del Movimento 5 Stelle, o perlomeno hanno sistemi diversi. Non so quale sia lo strumento informatico, ma oggi voglio per punti tecnici capire qual è il punto nel nostro paese di una possibile espressione di voto attraverso uno strumento informatico. Voi che ne pensate? Credete che sia possibile, visto che lo danno per scontato tutti i giornali, tutti gli organi di informazione, che abbia un'indicazione concreta, oggettiva, reale, un voto espresso attraverso la rete? 800240024. Perché Magalli è il primo tra i più votati nelle quirinarie di un giornale come Il Fatto Quotidiano? Perché la votazione è sul web, cioè online, su internet, e quindi è quello che viene maldestramente chiamato il popolo del web che ha votato. Siccome è fatto in gran parte di ragazzi di giovani comunque, i giovani sappiamo non sono affatto soddisfatti della situazione né sociale né politica né della propria situazione personale, perché la maggior parte se non lavorano, hanno inteso esprimere un voto di dissenso, non dico di protesta, la protesta ha una connotazione. 800240024, questo è Giancarlo Magalli intervistato e interrogato sul fatto che lui sia il candidato preferito, poi da una fetta di opinione importante, le persone fanno riferimento al Fatto Quotidiano, sono diciamo una sorta di elite di pensiero comunque, che si riconoscono in persone che leggono, scrivono, fanno opinione, fanno articoli nei giornali, scrivono libri, sono presenti in televisione, ma non è una fetta di disperati che dice vabbè, quello che dicono, dicono. Hanno espresso comunque Giancarlo Magalli. Magalli si esprime, devo dire, con grande saggezza rispetto alla domanda. Dice, vabbè, ma che senso ha votare in rete? Chiaro, se voti in rete, chi sta in rete, chi ha l'egemonia e la conoscenza tecnica degli strumenti in rete, quindi dei programmini che riescono a moltiplicare i voti, che con un click voti per 100.000 persone, è normale che si sia passata la parola di passo, dice votiamo Magalli così pigliamo tutti per il culo. Andrea Rossetti, buongiorno. Buongiorno, ciao Gianluca. Professore di filosofia del diritto all'Università Milano Bicocca, dove insegna anche informatica giuridica. Non trovi anche te che sia doveroso fare un punto, visto che tutti ne parlano con grande leggerezza, soprattutto come un dato acquisito, che le elezioni attraverso la rete ancora è una grande ipotesi? Ma direi di no, insomma il voto di Magalli più che testimoniare secondo me qualche forma di disagio testimonia che la maggior parte di coloro che hanno votato sono un po' dei burloni, francamente, che non hanno davvero preso sul serio quel voto, anche perché io non credo che sia vera l'ipotesi di Magalli che hanno votato soprattutto giovani. Le statistiche ultimamente dimostrano che in realtà coloro che si informano in rete è la fascia di coloro che hanno tra i 35 e i 50 anni, insomma la mia generazione, che quindi probabilmente non ha messo insieme qualche programmino per moltiplicare i voti a dismisura come è accaduto in passato, ma semplicemente ha preso il voto online per quello che è, insomma, una specie di sondaggio un po' a ridanciano, senza in realtà, senza nessun effetto sulle reali scelte che uno compierebbe se dovesse effettivamente compiere. Se vogliamo pensarci in termini giuridici, non è un controsenso, una contraddizione, una aporia dire il voto in rete, equiparare un cittadino che si esprime attraverso il voto a qualcuno che in un blog dice come la pensa su un presidente possibile della Repubblica? Sì, è chiaramente una metafora e anche particolarmente fuorviante, insomma. Questa idea della democrazia che si realizza attraverso la rete è stata una delle prime idee che si sono diffuse con l'uso della rete, insomma questo va detto, l'idea di poter partecipare in maniera più attiva e diretta alla politica, però effettivamente è davvero fuorviante perché il voto che viene espresso online non ha nessuna delle caratteristiche giuridiche che deve avere un voto per avere validità nelle società politiche occidentali moderne. Ricorda quali sono, ad esempio, cioè non ha la segretezza, non ha... Ancora prima della segretezza devo essere certo di chi sta votando, banalmente. L'identità di chi vota, io in realtà non so chi c'è davvero dietro la tastiera, nel senso che avrebbero potuto rubarmi le credenziali, oppure io posso aver acceduto legittimamente al sito e poi me ne sono andato un attimo, qualcuno mentre stava passando nella mia stanza ha votato al mio posto, insomma in primo luogo questo, quando il presidente del seggio ci identifica quando andiamo a votare nelle elezioni, non è che lo fa per suo piacere, lo fa perché in realtà appunto il voto è per prima cosa un voto personale, quindi io devo essere certo dell'identità di colui che sta adempiendo al suo dovere di cittadino. Ma non trovi che allora una rettifica proprio lessicale sarebbe doverosa? Abbiamo fatto passare ormai come un dato acquisito, come se fosse vero, senza entrare in merito del come, dove, quando e perché, che possa esistere la possibilità che un cittadino si esprima attraverso un voto in rete. Certo, però queste idee hanno successo proprio perché le parole vengono usate in maniera precisa, no? Viene utilizzato un termine che ha un significato giuridico specifico e viene usato in un contesto in cui effettivamente l'atto che io compio ricorda vagamente quello giuridico, non lo è, ma queste idee insomma hanno successo proprio per l'ambiguità insomma del linguaggio naturale che usiamo, e effettivamente è stata un'abile operazione di marketing coloro che per primi hanno compiuto un'abile operazione di marketing coloro che per primi hanno pensato di chiamare queste specie di sondaggi, queste manifestazioni della volontà che vengono fatte online voto, perché effettivamente immediatamente allora quando uno parla di voto gli vengono in mente un sacco di cose che hanno a che fare con la partecipazione, con la democrazia, con la vita politica, che però nella maggior parte dei casi non sono reali. Franco, buongiorno Franco. Sì, nulla, volevo intervenire in merito e volevo dire che per me online è una partecipazione del popolo italiano ad esprimere realmente qual è il suo pensiero, perché oggi il pensiero vero, cioè non so se si tocca veramente, cioè l'espressione del politico non mi sembra che sia proprio l'espressione del popolo italiano. Tant'è vero che abbiamo dei presidenti che non sono stati ancora eletti dal popolo italiano, abbiamo altre circostanze che per me non rappresenta il popolo italiano, non rappresenta più veramente, realmente il popolo italiano. Ecco, su questo posso anche essere d'accordo, una sua opinione, ma il fatto che attraverso la rete si abbiano, diciamo, tutte le caratteristiche che hanno sempre consentito in ogni democrazia al popolo di dare il suo consenso, e in realtà non è così, perché il voto in rete posso votare io, far votare il mio cagnolino, far votare 10 amici miei, divertirmi a votare 10 volte, capisce? Quello che voglio entrare non è indicativo comunque di una reale espressione, è sempre comunque... ha pienamente ragione, ma uno ha anche ragione dicendo che oggi l'uomo politico non rappresenta il popolo italiano. Sì, questo non c'entra, però parliamo un atto del voto. Sì, sì, questo allora, chi è che si avvicina di più al pensiero del popolo italiano? Io non sono convinto che il voto in rete, che è così scritto sull'acqua e così, sia la maniera giusta. Però si fermi un attimo, faccio intervenire un altro ospite. Marco Mancarella, buongiorno. Buongiorno, salve a tutti. Marco Mancarella è professore aggregato e direttore del laboratorio di e-government dell'Università di Salerno. Ha condotto due sperimentazioni sul voto elettronico. Voi che avete veramente messo a punto un sistema certificato, corretto di voto elettronico, mi spiega esattamente in cosa consiste, a differenza di un voto fatto attraverso la rete, attraverso un blog e via dicendo? Sì, noi ci siamo mossi in un ambito pubblico, ovviamente non privato come magari si può fare con social network o altri. Quindi i nostri interlocutori sono stati Prefettura e Ministero degli Interni. Ci siamo preoccupati di far votare degli enti... Ho detto Università di Salerno, del Salento, mi scusi, è un mio lapsus. Salento, sì. Del Salento, sì. Ci siamo preoccupati di far votare due enti locali con un referendum elettronico nel 2013 e nel 2014, con l'aiuto anche di una multinazionale che opera nel settore, ha fatto votare tutto il Venezuela, il Belgio, il Brasile, abbiamo sviluppato un ulteriore sistema più evoluto che possiamo testare probabilmente l'anno prossimo in Puglia. Noi ci muoviamo proprio nell'ambito delle consultazioni elettorali o referendarie e ci muoviamo nell'ambito dell'urna elettronica collocata dentro un seggio presidiato, il classico seggio dove tutti noi andiamo a votare, solo che una volta che entriamo non troviamo la carta ma troviamo un'urna elettronica, quindi hardware e software che sono tarati in base al nostro ordinamento giuridico e che ci danno una certezza del voto. Sentivo prima parlare di sicurezza del voto, che è fondamentale anche lato informatico. Ricordiamoci anche la libertà del voto, cioè se sposiamo l'idea di un voto via internet, un voto da casa, che nel mondo viene chiamato anche home voting, non abbiamo una certezza sulla libertà del voto, basta avere una pistola alla tempia e qualcuno da casa vota in maniera differente rispetto a come farebbe in un seggio presidiato. Chi è che ci assicura che uno non prenda tutte le vecchie di casa e gli tolga la minestrina se non votano? Nessuno ha la certezza di questo, o facciano come una volta facevano, andavano nei conventi e negli ospizi e facevano votare tutti. Fermo un attimo, diamo il traffico e continuiamo, è molto interessante. Lei ci sta facendo capire che può esistere il voto elettronico, ma è uno strumento un pochino più complesso, più costoso, più controllato, che richiede attenzione, non basta un click fatto sullo smartphone. Ah, non va il traffico, hanno strafficato. Va bene, allora riprendiamo subito, continuo con Paolo, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno Nicoletti, sì. Buongiorno a tutti. Volevo intervenire su questo, sono sostanzialmente d'accordo con lei e anche con gli altri interlocutori che il voto online non garantisce assolutamente le procedure democratiche, nel senso che deve essere un voto, deve essere regolato secondo delle procedure precise. E volevo ricordare che a dire queste cose negli anni 70, sono abbastanza vecchio quindi, era proprio Rodotà. Rodotà scriveva i suoi libri sull'informatica negli anni 70, diceva le cose che si dice oggi e purtroppo lui è stato al gioco in vecchiaia, diciamo così, di questo tipo di procedure. Allora resti lì, Paolo, la faccio parlare con Roberto. Roberto, buongiorno. Sì, buongiorno. Ha sentito cosa ha detto Paolo? Aggiunga quello che ha da dire lei. Sì, no, io volevo dire che Stefano Rodotà, l'ultima volta che è stato fatto il sondaggio due anni fa, è stato votato da 30.000 persone, quindi se anche noi avessimo un campione totalmente verificabile, comunque stiamo parlando di 30.000 persone, stiamo parlando di un sondaggio... Beh, Magalli l'ha quasi raggiunto, Magalli l'ha quasi raggiunto, al 23.640. Ma non è indicativo di nulla. Beh, un ballottaggio fra Rodotà e Magalli sarebbe notevole. Ma è così. Sempre in un range di persone molto limitate nel confronto, cioè non è rappresentativo assolutamente di nulla. Poi lo stiamo facendo all'interno di un partito che è l'unico partito che non ha un sito internet, quindi vive di un blog di un comico, ma è il movimento in quanto tale non ha un sito internet. Però queste due telefonate mi danno l'idea comunque della necessità di chiarezza in questa materia. Un ascoltore mi dice Rodotà in fondo è stato votato a 30.000 persone, l'altro mi dice letteratura alla mano, Rodotà è stato il primo, visto che è una persona che ha sempre studiato gli aspetti della privatezza legati agli strumenti informatici, a dire che il voto online era un'utopia. Però dopo, quando l'hanno votato, è stato zitto. Melog, cronache meridiane. Per votare bisogna essere registrati al Movimento, ultima data valida lo scorso 30 settembre, e collegarsi al sito dei 5 Stelle. Una volta effettuato l'accesso, l'elettore digitale si troverà di fronte a una lista di candidati relativi alla circoscrizione di appartenenza, con relativi profili, idee, foto e video. Ogni elettore può esprimere 3 preferenze nell'arco dei 4 giorni in cui si sviluppano le elezioni. Il voto espresso non è revocabile. Una volta scelto il candidato e cliccato il pulsante, la preferenza è acquisita dal sistema in via definitiva. Alcuni utenti hanno lamentato un malfunzionamento che avrebbe consentito di votare più delle 3 preferenze previste e sono stati riscontrati problemi sull'invio delle email per avvisare dell'abilitazione al voto. I risultati queste naturalmente sono le vecchie elezioni parlamentari del Movimento 5 Stelle, però dà un'idea di come funziona il sistema. Stefano, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, io volevo dire che c'è stato un voto per l'indipendenza del Veneto tramite sia internet che tramite voto tradizionale, e che comunque sia il voto online ha tutta una serie di procedure per cui il voto può essere realmente univoco, come per esempio l'invio di un codice a casa. Oppure c'è il voto dichiarativo. Il voto dichiarativo è un voto dove uno registra diciamo proprio la sua dichiarazione di voto, quindi il voto non è più segreto, e quello è certificativo. Quindi... Però come diceva il professore Mancarella, che adesso risentiremo, sì, dell'Università, sì, del Salento, ci sono sempre delle circostanze, il voto mi arriva il codice a casa, ma chi assicura che sia io a votare o non, sì, il voto di fronte a una telecamera, chi assicura d'altra parte telecamera non ci sia uno con un, non dico con un bazooka, sì, ma ci siano delle circostanze vessatorie. Mi sembra che non è che voglio spaccare il capello, voglio capire esattamente quando arriveremo a una corrispondenza del voto con la scheda. Però vedi, però dall'altra parte noi abbiamo un voto, quello fatto su carta, che è difficilmente verificabile, ci vogliono tempi lunghissimi e molto spesso uno non sa se il voto su carta poi non è stato cambiato da qualcuno all'interno. Ma infatti io sono dell'idea che la sperimentazione che stanno facendo nell'Università del Salento è molto avanzata. Guarda, sarà vera maniera per votare tutti. In Spagna lo fanno, Sì, gli Spagna infatti sono venuti proprio da loro a prendere contatto. Marco Mancarella, ricordo qualcosa del genere, vero? Sì. C'è una rete internazionale che sta lavorando proprio su questi progetti. In particolare i paesi in via di sviluppo come Brasile e Messico sono quelli più evoluti sotto quel profilo del voto elettronico che ho raccontato prima. Stiamo lavorando anche con l'Estonia, che è l'unico paese al mondo leader, diciamo, tra i paesi che utilizzano live voting, perché il voto da casa, il voto da internet è stato istituzionalizzato. Però con le circostanze... Che stava elencandomi lei, cioè che sono garantite tutte le possibilità che il voto sia segreto, personalizzato, non coercitivo. È sempre un voto da casa. E allora non ci siamo. Credenziali di accesso. Sì, il problema è che noi abbiamo un ordinamento diverso rispetto a quello dell'Estonia. In Estonia è stato possibile farlo. Da noi c'è qualche problema in più nella realizzazione di un voto da casa. Io vi dico una cosa in più, una novità ultima. In realtà l'Italia sta andando nella direzione dell'internet voting a livello istituzionale per gli italiani residenti all'estero. C'è una legge del 2012 che ha disposto l'approvazione successiva di un regolamento che ancora non è stato però emanato, che dovrebbe permettere agli italiani residenti all'estero di votare da casa, quindi internet voting, per eleggere i loro rappresentanti all'interno di alcuni organi di rappresentanza all'estero degli italiani che si chiamano Comites e poi CGE. Quindi diciamo l'Italia sta guardando all'internet voting, ma in realtà il fatto che il regolamento attuativo non sia uscito è abbastanza indicativo del fatto di quanto sia difficile all'interno del nostro ordinamento parlare di internet voting. Allora, Andrea Rossetti, professore di filosofia del diritto e informatica giuridica, cosa bisogna cambiare? La Costituzione, perché il voto elettronico comincia a diventare una strada perseguibile? Beh, magari non la Costituzione, però si potrebbero cambiare le regole che definiscono il voto valido. Questo sì, è una cosa che poi si può effettivamente pensare. Ad esempio, non come diceva adesso Marco Mancarella, non in tutti gli stati valgono le stesse regole. Ad esempio, negli Stati Uniti il voto non è necessariamente segreto. Quindi però il problema del voto segreto ha a che fare con un certo tipo di cultura che è tipicamente italiana. Quindi possiamo pensare sì di adattare le norme alle nostre esigenze, però non possiamo neanche snaturare in qualche maniera la natura del voto, che è il voto tipico che c'è stato in Italia fino ad ora. Ma come se ne esce? Scusami Andrea, Ma come se ne esce? Perché da una parte abbiamo già accreditato, è diventata una prassi che sembra per tutti che sia quella giusta, il voto online, senza nessun tipo di garanzia. D'altra parte abbiamo degli ordinamenti che ci impediscono che il voto online, o il voto diciamo elettronico, secondo le procedure che anche in altri stati sono accettabili, istituzionalmente controllate, non possa avvenire. Sì, sì. Le norme andranno sicuramente cambiate, però qui insomma, quando parliamo di diritto o di politica non è che dobbiamo inseguire in qualche modo l'ultima moda, no? O l'ultimo sistema operativo, o l'ultimo programma, dobbiamo avere sistemi che innanzitutto garantiscono alcuni diritti fondamentali al cittadino, sia che il voto sia esercitato online, sia che il voto non sia esercitato online. Se il Parlamento deciderà che ad esempio la segretezza non sarà più un requisito, allora effettivamente si potranno fare alcune cose, però rinunciare alla segretezza del voto e in alcuni contesti a me sembra veramente una cosa molto pesante, non sembra in realtà una maggiore democrazia, ma semplicemente una maggiore facilità di manipolare il voto dei cittadini. Tu pensa le località in cui il voto di scambio è istituzionale. Appunto. Rischi la vita se quando vai a votare in questo caso. Pensavo esattamente a questo, no? Addirittura io posso vedere il signore, adesso insomma tutto sommato nel voto fatto nel segreto dell'urna, io devo in qualche modo fotografare con la mia scheda, cosa illegale peraltro, no? Comunque dentro l'urna io posso cercare di fare quello che voglio, ma immaginate se io a caso dietro il signore che controlla esattamente che il voto che io sto dando e dopo mi dà 20 euro, 50 euro, quella che è la tariffa per questo genere di voti. Grazie Andrea Rossetti, grazie Marco Mancarella, alla prossima.